Alle armi è proprio un titolo, come dire, molto esplicativo, molto dichiarativo, ma è un viaggio nell'industria bellica. Le armi, appunto, come diciamo uno slogan della compagnia è che l'Italia non è l'eccellenza, non è il grande produttore solo della moda e del vino, ma ahimè, appunto, eccelliamo anche in un'industria che è quella delle armi. E quindi è un percorso all'interno di questa realtà. Delle armi, non la cosa interessante secondo me è che questo spettacolo non è semplicemente il racconto, la spiegazione, l'informazione riguardo a tutto questo che c'è e che ci porta ad avere consapevolezza su cosa e su quali siano anche le responsabilità rispetto alle guerre di chi produce le armi per fare quelle guerre, ma lo fa con un linguaggio molto suggestivo e accattivante, originalissimo, che è quello del gioco. Quindi noi vediamo le armi attraverso il gioco in quanto armi giocattolo, ma anche in quanto la guerra come un gioco, che è una cosa assolutamente inquietante, in qualche modo sì, pericolosa, perché ci porta dentro a un'idea di guerra leggera, facile, anche divertente, piacevole, e quindi è molto anche inquietante per il pubblico. Poi pensiamo anche ai più esposti, cioè i giovani, se non che giovanissimi in tutto ciò. Hai parlato di armi giocattolo, abbiamo parlato anche, spesso denuncio, certo mi rendo impopolare, però lo stesso gioco di società famosissimo che ha la guerra come sfondo e campo di battaglia, sì, ok, è un gioco. Beh, diciamo che è un gioco che per la proiezione futura e poi per anche quello che vediamo in contemporaneo non è rassicurante, e quindi condivido pienamente questo motivo di critica, oltre che per la guerra riguardante i più giovani, per quello che vediamo nelle scuole con queste manifestazioni che sono conseguenza di una facilità nel recuperare armi, nel procurarsele e quant'altro. Quindi l'industria bellica è un gioco, e poi un arrivo nello spettacolo di Ombre Collettivo a Teatri di Vita dal 10 al 11 aprile, e immagino che anche a tutti gli aspetti che ho appena citato sia relativa alla denuncia sul palcoscenico di Teatri di Vita, Stefano. Assolutamente sì, le armi appunto sono al centro, proprio come escalation, diciamo, dall'arma più apparentemente innocua, se così si può dire naturalmente per un'arma, a appunto all'escalation più globale. La cosa interessante è che Ombre Collettivo è un collettivo di giovani artisti che portano avanti un approfondimento di tematiche civili molto significative. Il loro spettacolo precedente, Casa Nostra, era dedicato alla mafia, quindi insomma sono tutti temi molto forti, e sempre attraverso il gioco. E questo è proprio per intercettare, in qualche modo, per dialogare con un pubblico giovane, ma ovviamente non solo, e non è certo per questo, ma proprio per riuscire ad avere un linguaggio che vada oltre la parola che spiega, perché attraverso il gioco, i colori, l'immagine, il messaggio, diciamo così, arriva in maniera estremamente più diretta, tant'è vero che questo spettacolo Alle Armi lo stanno portando in giro a livello anche internazionale, dalla Polonia alla Malesia, perché riesce a parlare, a portare questo discorso sulle armi, sugli armamenti e sull'industria bellica davvero in tutto il mondo.